Sì, discorso chiuso, cambiamo argomento, se no ci facciamo le ore piccole. Chi c'è? Massimiliano avanti a te, il mic e poi a Claudio. No, me lo sentivo, adesso 64.5 era zero poco fa il QRM. Quanti watt stavi usando? Aspetta, ho sentito forse Fabrizio sotto. Fabri, cos'è lei? Ma hai rilanciato a me, Robeo, che cosa? Boh. Rilanciato a me? Sì, ho rilanciato a te, forse poi nel momento stavo parlando ha parlato Fabrizio. Aspetta, vediamo se c'è ancora. Fabri, ha detto qualcosa? Ha chiesto qualcosa sul segnale, non lo so. Vai di nuovo Massimiliano. È positivo, là. Va bene, dai, decide a lui poi cosa fare, cosa non fare. Noi consiglio con un pochino più di esperienza di lui, gli abbiamo dato, poi decide a lui cosa fare, cosa non fare. Comunque, va bene così, dai. Ok, io faccio riprendere Eugenio che ancora non l'ho sentito, non l'ho salutato, la verità. E mi dispiace questo perché è un amico. Vai Eugenio. Ciao Massimo, ci può fare, non c'è problema, figurati. Niente, va bene, comunque, tutte cose, niente, riprendi giù. Ok, riprendo io, intanto vi do la notizia che ci sono stati solamente 3 contagi in Sardegna, assenza di nessun contagio comunque, là, uno a Cagliari e l'altro nel sud di Sardegna, sempre 3 contagi, meno male che sta passando questo accidente del coronavirus, questa è una cosa molto importante, altro che il microfono, si contiene un busili, che sono basso, oi, va bene, dai, avanti Gianni. Dai, ti ringrazio per avermi rilanciato perché sto facendo QRT, dai, che devo portare giù il cane. Ci sentiamo, buona serata, poi ieri sera sono entrato e non c'era nessuno, stanotte non so se c'è qualcuno, provo, e vediamo un pochettino, dai, quando rientro provo a fine. In ogni caso vi porto giù il portatile, dai, quando va. Tu stasera già, dopo che finisci la cena, attacca il lineare e in ogni canale parte dall'1 fino al 40, prova a fare una chiamata in tutti i canali, se c'è qualcuno già ti risponde. Grazie per il consiglio. Te immagini. No, ieri non c'era nessuno. Vabbè già, diciamo che adesso il 90% ha ripreso a lavorare, capito? Quindi stare in radio fino alle 11, mezzanotte, per uno che si alza presto, non è che sia al massimo, là. Comunque. Mi sembra che ci abbiamo lasciato un po' in parcheggio a Claudio Ruginito e a Luca. Claudio, ci sei ancora? Massimiliano. Chi è? Registrato. Tino. Sto provando un apparato, mi guarda il segnale un attimino. 9:15 T. Sei troppo ribombante. Ma quanto ce l'hai col microfono? Ammazzalo, quanto ce l'hai? Mettila a 3, mettila a 3. Quanto sfigge quell'MB più 4 normale con quell'ara in 48, allucinante. Mettilo a 3. Oh, caspita, è troppo rimbombante era. Lascialo a 3, Cla. Lascialo a 3. Puntella così. Lascialo a 3 e toni a 2. Boh, lascialo così. Cioè, Tony non ne ha quello. È un MB più 4. Lascialo a 3, Cla, perché è troppo forte, se no. Vai, Giulia. Sono al telefono. Ma la sorte che... Avanti, Tino. Buonasera. No, stavo provando quell'amplificatore. Claro, guarda a vedere se cambia qualcosa, questo baracchino serve a precare anche i suoi. Mi senti? Sì. Sì, ma quando hai detto cambi qualcosa, te ne sei andato a zero. Cioè non ti arrendi due. No, questo è un altro. Oh, lascia perdere. Adesso sono con le 48. Ok? Ma mi senti qua? Sì, 9:10 qua, Tino. Meno male, qualche nome da retta. Guarda a vedere, faccio un passaggio, magari non esce, capito? Guarda. 1, 2. Hai detto 1, 2 e poi cosa hai fatto? Quindi ho capito, dai, quando attacco c'è qualche cosa nell'amplificatore, capito? Infatti, poi scompari. Bene, il problema è quello, ok. E alla radio bella chiara, fino alle 9 più 10, c'è la voce di Marco Scorpio con questo baracchino, lo sai. Vabbè, questo è 48 normale, dai, normale. No, non so se è normale. Se ne va per i cacchi su, vuole controllato, dai. E alla radio questo passaggio va bene. Ok, vediamo un pochettino che è rimasto. C'era Luca, 2 ore in parcheggio, l'abbiamo rilanciato un paio di volte. Luca, ci sei ancora? Eugenio. L'avete rilanciato? No, adesso ho lanciato a Luca. Vabbè, riprendete la tua e poi passa a Eugenio, che anche lui è in parcheggio. Ti hanno lanciato, ti hanno. Vabbè, ciao, che me devo uscire e devo fare cosa? Così smonto tutto. A più tardi. Tino, io ti ho dato il segnale, non so se mi hai sentito, ti ho detto che sì, 9 più 15, la radio è un po' così. Microfono normale, Massimiliano, è il Midran del Midran 48, col microfono suo originale. Però siccome se attacco questo amplificatore, non è questione di finali, no. Sicuramente hanno forzato nella manopola delle regolazioni e praticamente si è staccata quella scheda lì, capito? Ehi, ha mai chiuso anche di radio quella, capito? Guarda che a fianco al modulatore c'è una vite, apela tutto. No, assolutamente. Vabbè, mi interessa far aggiustare questo amplificatore. Non sta uscendo. Sì, no, non si è uscito. No, è una questione di microfono. Sei basso a basso del radio. Cioè in pratica non ho capito l'amplificatore cos'è che c'è a tipo. No, ma poi anche basso del radio, sicuramente è roba di microfono quello. Dammi 150 euro e ti do il B300P. Dimmi, non ripone. Ascolta, te ne do 100 io. Sì, sì, 100 euro a te, ma lui 150. Allora a posto, va bene. Gappa gappa, che è rimasto qui ancora? Adesso scendo sto. Ehi, ho detto mi dai 150 euro e ti do il B300P. No, me ne faccio niente, il problema è che questo qua devo ripararlo a tutti i costi. E qual è il 300, il tuo? Sì, sì. Mandami la foto, se te l'ho detto. Cosa? Mandami la foto, che non so neanche cos'è, quanti watt dà? 200 watt dai, in AM. 180, dai. Vabbè, adesso vediamo, dai. No, è l'altro, stavo utilizzando il 48. E stavo dicendo, Massimiliano, ha 4 finali questo qua, quelli a croce. Ma cazzo si chiama, aspetta, te lo dico subito. Il cazzo è? MF455 mi sembra che siano. Ehi, gli MRF 455, quelli sono da 70 watt l'uno. Cos'hai, un 550? Un modello 500, sì, 550. Quella è la M del radare, 300 watt. Se riesco a metterlo a posto, siccome hanno forzato la regolazione dei watt, si è staccata la schedina, quindi volevo far saldare, dai, diciamo, perché io non so come devo mettere le macchine. Uno a me me l'ha bruciato Claudio, ultimamente Claudio se mi è bruciato la marca delle varie. Oh, c'è Giulio in riposo e Riccardino, avanti Giulio. Io che ho risposto che stavo cenando, Ciao lui, avanti Giulio. Oh, anch'io, ciao a tutti. Al limite se coincide più tardi, Ciao a te. Dove stai andando? Sto smontando tutto e se parlo alla radio c'è un casino sopra le altre radio, quindi devo staccare fili e quant'altro. Sono qua, là, in Correx. Ah, ok. Ma ci avevi agganciato quella cosa prima? Sì, però quando era agganciato, sì, ho fatto un passaggio, stavo contando sino a 4, a 2 mi hanno perso. Perché, perdona Massimiliano, ti ho già detto di persona che quell'amplificatore l'ho avuto anche io della Falcos, ok? Ho avuto la serie, quella leggermente più piccola, quello mi pare sia 500 e ho avuto il 300, perché la Falcos fa le stesse lineari che fa la ZG, più o meno per capirci. Quindi due sono le cose, o c'è qualcosa in corto sulla parte di commutazione, ok? Perché se fossero stati finali non ti dava neanche, quando tu lo agganciavi non ti dava neanche la ricezione. quindi può essere qualcosa sulla parte della commutazione che ti manda in corto, e quindi andando in corto ti toglie anche la trasmissione. Claudio, no aspetta, ti correggo, se partono i finali la ricezione ce l'hai sempre, capito? È la trasmissione che non hai. Sì, scusa, la trasmissione ti toglie la trasmissione solo una volta che l'accendi. Invece in quella maniera lì, Massimiliano, non so se l'hai notato, lui va a trasmettere, poi quando lo aggancia, per agganciare il relè, va in corto, quindi c'è qualcosa lì nella commutazione. Sì, ma se te l'ho detto io, qua. Allora io l'ho aperto e ho visto che c'è la scheda delle regolazioni dei watt da 1 a 6 che si muove, quindi c'è lo stagno staccato, capito? Ascolta Otino, domanda, ma quando tu lo agganci questo lineare, i watt te le segna? No. Non ti segna neanche il watt, zero completamente? No, ma li segna perché non sono collegato con il rosmetter e il wattmetro. Sono cosa aperta, a pannello aperto, ho provato ad attaccare del cavo così per vedere se funzionava o meno, siccome gli ho provato a scaldargli lo stagno per vedere se si attacca, ma sicuramente è una cosa che vuole fatta da altri. Allora io l'ho dato, quello che ce l'avevo, quel commutatore a 6 scatti, l'avevo dato, mi sembra coso, a chi cavolo l'ho dato non me ne ammento. Ti ricordi quel lineare che mi hai bruciato, la massa di Nevaglia? Quello lì, quello ZG, andava bene. Però convieneti, quando fai queste prove, aggancialo lo smettino, vedi un po', almeno se sta dando watt, capito? E poi così sei sicuro, dai. Ecco, ma se devi fare la mi hai bruciato, vedi tu, la radio la tua, l'idea è tuo, ma tu non puoi andare, non so che sai quanti fatti al via la radio. No, a 48 era il tuo, era il mio. Ah, 48 era il mio, e tu cosa hai mai detto? Sino a 20 watt, 15 watt, guarda, 10 watt, ho fischiato e sei crollato. Oh sì, prima agganciato in sesta marcia arrivava quasi 9,20 a sorso. Dabu gli ho detto aumentalo poco a poco, la butta manetta, un fluscio e stava arrivando Santiago 3. Ma mi hai detto tu però la matta delle varie, che tu mi hai bruciato lineare, tu mi hai bruciato, hai detto di aumentare, io ce l'avevo a 3 watt, 10 di picco, ho detto aumenta, che non mi fa niente. E il mio c'era 30 watt e era 48, quindi l'ho messo a 10 watt e si è alzato a 30 di picco e l'ha crepato. Tino, ui, cos'è questa sirena che c'hai con lo schiaccio? Sicuramente perché sono tutto aperto e c'è ancora rumore. Ma la sentite voi? Noi siamo abituati a sassi alle sirene, adesso se non ne bastano le sirene. Vabbè, dai, prima di arrivare a sassi ne bastano le logame. Massimiliano, non intendi tu? Aspetta un attimino, aspetta che te la tolgo. Facciamo riprendere a Eugenio e a Riccardo che sono in parcheggio. Avanti Eugenio e poi passa a Riccardo. Sono le prese col cellulare che mi si è spento, non riesco più a accendere. Un attimo. Perché sei mezzo cotto tu, ciao Eugenio. Ciao Tino Muscolo, ma Muscolo perché? A chi sei grosso? Boh, non lo so. Ascolta Franco, guarda un po'. Vedi se c'è ancora la tua sirena. Sempre c'è. E allora la tua radio? No. Infatti. No, ti già si sente, però non è fastidiosa. Ma non è una sirena, è un... È la ventolina, dai. Ah, la ventolina. Ascolta, Franco Di Sorso, quel MB più 5 Kenwood ti interessa? MB più 5 Kenwood, cos'è? È un MB più 5 Kenwood. Connettore Kenwood, alimentazione Kenwood, fatto Kenwood. No, non me ne dico. Ci sono anche le tutte che vengo bene. Aspetta, Franco, guarda adesso. Sì, sempre ce l'hai. Ehi, a te. Boh, non so cosa dirti allora. La ventolina deve essere, boh. Sì, c'è la ventolina attaccata del coso, va a trascinare, ma non fa niente. Questo è il 5005. Sì, vabbè, ma non si sentiva prima sta ventolina, è bello pulito, ho capito perché si sente sta ventolina. Guarda, ti ho mandato la foto del B300. Ehi, adesso la guarda, aspetta che vi faccio un po' di pulizia, dai. Vabbè, Riccardo, riprendi? Ok, riprendo io. Grazie. crescendo benissimo, se vedi che le cose si possono fare le fai, se non si possono fare oramai te l'hai comprato e te lo tiri così. Stai uscendo bene, il microfono è funzionante, non è che non funziona, però era per questione di principio che uno che vende deve vendere una cosa nuova, non usata, ecco, era questo il discorso. Nessuno ti ha voluto offendere o dire che non sei buono a comprare, ok? Il microfono va benissimo, alla grande, quindi nessuna obiezione. Però quando uno vende, da professionista, da commerciante, deve vendere una cosa buona, una cosa nuova, non sporcata dagli altri, e questo è il principio del discorso. Un baci, glielo dici, se è fattibile questo cambio lo fai, altrimenti te lo tieni così e pazienza, ok? Claudio, ufa. Comunque l'ho preso anche io 70 euro, l'ho lasciato anche a me 70 euro. Ho capito, Fra, ho capito. 70 euro, adesso il suo prezzo, io l'ho comprato l'anno scorso, a metà dell'anno scorso, il 2020 sta iniziando, siamo a maggio, quindi mi pare che l'ho comprato prima dell'estate dell'anno scorso, nel 2019, l'ho pagato 59 euro e ce l'ho qua, nuovo nuovo. L'MB più 4, 49, ok, se poi è aumentato va bene, però il principio cos'è, Franco? Costa adesso 70 euro, come io l'Alan 48 l'ho pagato 160, adesso costa 200, due anni fa, va bene, ci sta, però il principio qual è? Lo pago 70 euro, oppure da 78 mi fai 70, ma me lo dai nuovo, se vedi le foto di quel microfono, Fra, sembra usato, capito? Quello era il discorso, a prescindere che esca bene, va tutto bene, però cacco, sei un commerciante, dammi una cosa buona, pure a te te l'ha dato tutto gaggato e con le alette sollevate delle scritte, non penso, non ne avresti comprato. No, il mio è nuovo, proprio di pacca, è bello. No, se è così allora quando è andato è tutto a capo. Ecco, questo è il principio di discorso che avevamo poco fa, siccome è intervenuto Giulio, è intervenuto Eugenio, sono intervenuto io perché io in prima persona ieri gli ho detto, Ricca, vai e comprati un microfono da tavolo, visto che c'hai qui il base, ci sta anche bene, bello. Fuggiaro sta vendendo gli MB più 5, poverino, è andato a comprarselo col padre e gli ha dato questo microfono un po' messo male. Ok, questo era il discorso, però sta uscendo benissimo. Capo, allora sì, allora c'ha ragione, non dico niente. Allora, a me me l'ha dato l'uovo proprio bello, addirittura non l'ho neanche aperto io perché tutti gli l'attacco andava bene alla baracchina che lo dovevo usare. Sì, gli attacchi che danno sulle MB più 4 e più 5 sono standard, quindi sono dell'ala 48, quasi sempre. Capito, ma quello è un'altra cosa. Il problema è che il microfono, io ho la foto, se vuoi te la mando, c'è la letta proprio della scritta che tu ti ha sollevato, ecco, il discorso era quello, vai Massimiliano. Sono rientrato, guardate un attimino se c'è ancora quel ronzio, io credo che sia la ventola, però non c'è altro di attaccato. Sì, è una ventolina, Tino. Sì, Tino, c'è ancora. Beh, vabbè, ma vuol dire che si spegnerà. Oh, mi pare la bomba che non si usava l'allarme, che andò a chiamare l'impianto della petrochimica. Mamma mia, questa bomba era diversa, frate. Sì, se quando bruciava tre voci da fuggire. Già può essere il capo invece. Guarda se funziona. Si sente? Ha giudito Fra, quando suonava tre voci chi sa era fuggie. Questo mi costa un pacco, l'ho detto a G. Almeno più 5, costa 100 euro, 95. Poi alla fine l'ha pagato a prezzo buono, Ma se lo mangiano, ma io non le compro, cazzo compro l'MC60 a 120 euro nuovo. Ma prendete conto, cazzo, cioè è stupido chi compra un MB più 5 a 100 euro, è stupido. Vabbè, comunque costano così. Alla fine l'ha pagato buon prezzo, non lo so se è messo male questo microfono qua, non ho idea, comunque costa 79 euro, cioè qua, nuovo, Nuovo, c'è anche l'MC60 a 70 euro, nuovo dentro la scatola, usato ma nuovo dentro la scatola. Capito, 70 euro, nuovo, mai usato, seconda mano, 70 euro. Luca, allora mi ha mandato le foto di Riccardino, c'è anche la foto della scatola e c'è stampigliato con l'adesivo, 78 euro lo stavano vendendo, gli hanno fatto 8 euro di sconto. Per quello ti sto dicendo, se tu dai una cosa così manomessa, adesso ti mando le fotografie e poi mi dici se tu ne avresti preso. Ma no, solo per curiosità, c'è ancora? Così dopo, tanto so che il microfono. Eia, le connessioni, dai. Connessioni ai microfoni che sono da spostare qua, spostare là, e vabbè, se lo vuoi fare. No, io non te l'ho mai sentito questo rumore. Lo so, va bene, dai. Riprendete che devo fare cosa. Vai, Massimi. Aspettate, stava parlando Riccardino, l'avete schiacciato, un attimo. Stavo dicendo, però c'è qualcuno, anche Claudio, qualcuno che è il partner, che lo posso chiamare, visto che così, così apre anche un altro microfono da tavolo. Riccardo, rispondo io, visto che siete abbastanza pratici ad usare il computer e stai comprando radio vintage bellissime che le ho viste, e dici a tuo padre, mi ha detto Claudio, di guardare su internet se c'è qualche Turner più 3, ok? E te lo ordini da fuori, perché qua sa se non ne ha nessuno, chi ce li ha quei microfoni se li tiene, Ricca, capito? Perché sono dei microfoni che vanno molto bene e qualcuno se lo fa anche pagare. Quindi guarda su internet, se digita Turner più 3 e guarda se c'hai, se c'è qualcosa, capito? Scusate, ora c'è ancora? 3, prova? No. Va bene, risolto. Cos'era? L'apparato cambiato. Facciamo così dopo. Non si vuole fare le connessioni a vacca. Cosa hai fatto dire? A posto, mi sentite? Sì, no, no. Vabbè, cosa hai fatto? Cazzo, ho cambiato l'apparato, bravo. Cazzo, tu eri voluto dottore, cazzo. Sì, sì, allora, sai, lui, la giornata è un barocchiano. Tira, tira, cazzo, non ho una garanzia, questo muscolo, cazzo. Però io, però c'è bisogno di guardare i siti italiani, guardi su eBay, vai su eBay oppure metti su Google, metti motore ricerca e digiti cerco Turner più 3, ok, e vedi se c'è qualcosa in Italia. Io ultimamente ne ho trovato uno, mi pare che lo stessero vendendo 75 euro, era quello nero ed era in buonissime condizioni, poi ce n'era un altro grigio che però era un po' messo male, ma anche se è messo male si può sempre riverniciare, lo dai a Roberto e te lo fa nuovo, non è un problema quello. Digita, vai su Google e scrivi sul motore di ricerca, cerco Turner più 3 e guardi a vedere se c'hai dei risultati, capito? Vai Massimiliano. Ehi, ehi, positivo, positivo. Cos'è combinato adesso ti? Ma meglio va, dai, mi stavo allontanando. Ma ho cambiato radio, Massimiliano, così almeno non sentite ronzio. E vabbè, io te l'ho voluto dire, c'era quello P sotto così. No, ma è, sai, allora, io ho avuto sempre il problema di questa massa con questo Intec qua, no? Addirittura devo modulare con il microfono sopra la radio, sono innesca. Se appoggio la mano sopra la cassa del microfono innesca, se faccio una massa non esce di radio, se faccio un'altra massa lo stesso innesca non esce di radio. Allora ho trovato la soluzione di mettere il microfono sopra la radio, così si fa massa da solo, devo stare solo attento a non toccare la cassa del microfono e basta. Allora, ho notato che a furia di spostare, fare le connessioni microfoniche aree si sono leggermente, credo che siano spostate, qualche filino che tocca, quindi volevo controllare, ma non ha giurà, rimanderò tutto quanto a sabato, se ne ho voglia. Va bene, signore, dai, approfitto che ormai che così mi sposto, faccio un po' di pulizia qua e poi al limite se coincide stanotte, riprende Massimiliano. Sì, sì, positivo, dai, nel frattempo mi sono andato un attimino su subito per Riccardo, c'è un Sadelta più un Turner più 3, quello grigio per capirci, 100 euro. Ok, sono due, io non c'ho il tuo numero, se no te l'avrei inviato a te. Sì, sì. Ciao. Ciao Claudio, ben sentito, dai, poi se coincide ci sentiamo un altro momento. Avanti gli altri, Massimiliano, Claudio, eccetera. Ciao Claudio Ruginoso, dai, ci sentiamo, salutoni in famiglia, alle prossime, buona carica e buon tutto. Roberto, ho girato un link di subito, giralo a Riccardo che tu c'ha il numero, dai, ok. Avanti qua. Sì, ottimo prezzo. Prendi quel Turner più 3, lascia stare l'altro. Il prezzo suo, vabbè, un Turner più 3 si può comprare. Quello grigio si può comprare a 100 euro. Quello grigio si può comprare a 100 euro, perché è il prezzo suo. Giraglielo. Ciao Claudio, poi la prima occasione ti passo qui il manuale della RAN 48. Ok. Diglielo a Babbo che c'ho anche quello, perché l'ho comprato nuovo, quindi io conservo tutto, ce l'ho adesso guardando, cercando quello schema del più 3, ho trovato quello. Va bene, ciao, buona serata e buon tutto. E niente, avanti a chi tocca salutare a Ciccio Bello. Ciao Claudio di Muro, sarà prossimo, buona carica e buon tutto, ciao. Sì, sì. Sì, ciao, ciao Cla, va bene, appena mi muovo te lo passo, dai, ok. Ciao, buona serata, buon tutto, saluto a casa. Avanti, Robbe, gliel'hai girato? Sì, ha tutto mandato. Però tenete presente, quello è un buon prezzo sicuramente, da verificare naturalmente se funziona perfettamente. Lui c'ha il Frederick della Turner, è nuovo nuovo, bisogna solo attaccare i fili dell'amplificazione, della scheda, perché l'hanno fatto diretto, senza amplificatore. È il suo nuovo nuovo, io l'ho aperto, l'ho guardato, però ci sono tutti i fili staccati, perché hanno eliminato la batteria e hanno staccato, hanno messo il PTT diretto e lui c'ha un grande microfono. Possiamo dire roba il PTT diretto? Non c'è niente il PTT, lì c'è il circuitino dove ci sono le 9 volte dalla batteria vanno attaccati sul circuito stampato. Io ti do lo schema del circuito stampato e tu le saldi nuovamente il rosso e il nero con l'attacco dei 9 volte alla batteria. Il microfono sta funzionando. Infatti voglio fare così, l'hanno messo diretto eliminando il circuito di amplificazione. Ho fatto normale, ok. Evidentemente quel microfono andava attaccato a qualche radio ATF in SSB e non c'è bisogno di circuito di preamplificazione. Capito? Come quello che ho dato io a te che non è amplificato, si è messi tipo Turner americano, quello verde. Quello è un semplice microfono, Turner più 3, modello Turner più 3, però non è preamplificato, normale. Così l'hanno fatto. Comunque, domani mattina ti passo lo schema, lo controlli bene e le metti i fili piccolini, compri l'attacco già pronto, quello per i 9 volte, le saldi il rosso e il nero sul circuito stampato dell'alimentazione microfonica, il microfono è a posto. Sì, sì, infatti faccio così, poi devo fare lo spinotto, perché lo spinotto l'hanno tagliato, probabilmente le avevano messo un altro spinotto, dai, cerco di sistemarlo sperando che sia tutto perfettamente funzionante. Guardandolo così mi sembra tutto in ordine, non vedo saldature lofi o cose strane. Ok, chi è rimasto qua? Eugenio, ci sei ancora? Sì, sì, sono le prese col telefono, mi si è spento. Adesso le faccio quattro. Stampa zero. Avanti Riccardo, che poi passerà il mic a Massimiliano e poi non so se c'è Luca. Luca, l'hai visto le foto del microfono? Ah vabbè, così non credo l'avrei preso, ma stavo scherzando. Avrei preso nuovo a 79 euro, ma nuovo di pacca, con la scatola e tutto su eBay. Alla fine siamo tutti d'accordo allora, no? Vabbè, non l'ho visto, Clara. Ma poi ho notato anche, non so se è così, che rimane un po' ingiallito come muda, io faccio lo smettere del modulatore. No, sei lì, allora, attenzione, io ne ho due di MPP5, uno di Massimiliano, quello di Massimiliano è più recente del mio, l'ho detto anche l'altro giorno, il mio non c'è scritto c'è, se in quello non c'è scritto c'è, addirittura è un modello vecchio di magazzino quel microfono, tranquilli, perché quelli che stanno facendo adesso, dove c'è la scritta MB+5, ZG MB+5, sotto l'MB+5 c'è scritto c'è, CE, quindi se non c'è scritto CE, è anche un modello ancora più vecchio. Il mio c'era scritta sotto la scritta ZG. Esatto, è il tuo modello nuovo, come quello che c'ho qua di Massimiliano, è il modello dopo il mio, a norma c'è, il mio non è a norma c'è ad esempio, né il 4 né il P5, ok, perché li ho presi 2 anni fa, va bene, non è, la norma c'è e non mi interessa. Se quello che ha preso stamattina a Riccardino non è a norma c'è, si deve vergognare ancora due volte. Claudio, io voglio capire, ha venduto lui o lei? Lei è in cassa integrazione, Antonello. Non so quando rientra, capito? Dimmi, Roberto. Allora, quanti anni me l'hai dato tu l'MB più 4? Mi pare nel 2005, se non sbaglio, proprio all'inizio, è vero? Esatto. Allora, il mio MB più 4, cioè CE, sotto, mentre l'MB più 5, che è probabilmente più vecchio, non c'è scritto. Fatelo conto, 15 anni fa, stiamo parlando perché me l'ha dato nel 2005, scusate, però c'è scritto CE. Sono abbonato a gente appigliati. Comunque, io ce l'ho quello di Massimiliano e c'è scritto CE, il mio non c'è scritto CE, deve essere sopra, non sotto la scritta, vai Massimiliano. Oggi, quello che ti ho dato io, il microfono, quel più 5, quanti anni te l'avrò venduto già, quanto ce l'avrai? Tu, ero bambino, ora non mi ricordo, avrò avuto 8-9 anni. Che gaggio, che c'è? Andavo in giro ancora oltre il ciclo, ora non so. Quanti anni ci avrò? Boh, 5. Boh, un 5 anni, più o meno. Allora, quel microfono, ciao Gino, gliel'ho venduto io sempre. Ed è sempre con la scritta CE. Quello che c'avevo qua è uguale, quindi fatti un conto, quello che ha preso Riccardo non c'ha la scritta CE, marchio CE, quindi fatti un conto, è ancora più vecchio qua. Ma poi mi ha mandato, Massimiliano, mi ha mandato il video Riccardo, tu devi vedere come si muovono tutti i potenziometri, tutti mollati. Oh, la sapete. Ascolta, mi stava chiedendo mia moglie, Roberto, dove hai scaricato quella suoneria del telefono? Su internet, ma ce l'ho tanti anni, ce l'avrò 20 anni, sì, una ventina d'anni ce l'ho, no vabbè 20 no, ma 15 anni sì. Ok, va. Oh, comunque quel Sadelta con quel Tarno più 3 a 100 euro, tutte e due si possono prendere, 50 euro l'uno. Sì, magari sarebbe anche meno di 50, ma quel Tarno è un bel microfono, naturalmente bisogna avere, non sai cos'è le fruttiture, che addirittura cambiano le capsule, se li mettono negli HF e in altri tipi di microfoni e modificano. Bisogna sperare che non sia modificato il prezzo, diciamo è ragionevole. Si vede che è usato perché non è nuovissimo come estetica, però sono microfoni che hanno 50 anni quelli. Ma Robè, con 100 euro ti stai prendendo un Sadelta e un Tarno più 3. Cioè non è che sono due microfoni che costano più o meno 60-70 euro l'uno, anzi il partner è visto l'altro che ti ho mandato, nuovo, 120 euro, cioè ma di cosa siamo va vedendo. Quindi, a 100 euro io quei due li avrei presi, poi si può sempre sistemare, capito? Per quello non è problema. Vai Lugaria. Sta questione di soldi, ogni cosa, soldi. Vabbè, no, comunque cioè, non si prende una cosa così. Io non l'avrei preso, ho detto quello di là a fianchi. Se avete segreti lui, bah, poi si mettere le scendi. Ma se dimmi. Cerca Sirena bitonale polizia, tu e la trovi anche su YouTube, cioè te la scarichi e poi te la memorizzi e te la mandi nel cellulare. Aspetta, cosa devo fare che c'ho il computer acceso? Sirena bitonale polizia, guarda dove si sente proprio la sirena di qualche intervento, cosa del genere, e poi te la mandi, te la rimandi sul cellulare. Kappa, andà bene. Avvisala che fa spaventare un po' di gente, soprattutto se è supermercato, la gente come brinca. Quando io molte volte infatti se entro in banca che ho avuto una brutta esperienza la spengo, se no guai. Una volta ne sono usciti i buchi di gente, guardie di giurate, tutta la gente cagata, tipo quando c'è una rapina, cagati sotto, ma mi capita tante volte, infatti secondo dove vado la spengo sempre. È buono, va bene. Avanti, Tino, è andato via, no? Tino, vai. Sì, mi sembra di sì. Mi sembra sia allontanato. Sì, fra, è come quello di Massimiliano, quello che l'ha fatto mi ha mandato tu. Il mio no, il mio non c'è scritto c'è. Ma non mi interessa, io li ho presi tempo fa e sono così. Non so perché, ma non me ne frega niente. Escono bene e sono più che contento, non mangio in maniera scritta. Però, no, quello Riccardo ce l'ha la scritta c'è, dai. Va bene signori, io vi saluto, mi allontano dalla radio, vado a cercare qualcosa perché c'ho fame. sono due giorni con questo mal di stomaco, quindi vado a mangiare qualcosa. Se ci siete a dopo, se no divertite, va, buon proseguo a tutti e alle prossimine. Ciao ciao. Scappa. Ciao Claudio, ci sentiamo, buona carica, buon. Bianco per me un attimo al telefono. Quelli che ho mandato a Roberto per girarli a Riccardo, così te li guardi. Ok, va bene, vai Oggi, riprendi e fai girare, ciao Cla. Anche io ragazzi vado a farmi un po' le mandibole, dai. Che oggi ho fatto 1 ora e 10 di lavoro e sono stanco e ho fatto. Ciao! E beh, Massimiliano. Ciao Gabri, ciao Oggi, buona carica allora. Buon masticamento di mandibole anche per te e ci sentiamo, va? Sì, c'è Eugenio che sta andando via, vai Robè. A più tardi, ah, ciao a tutti, ciao. Caparroccio, vai Gabri, riprendi. Ehi, ehi, un saluto a tutti. Mi sa che Claudio gli è andato via. Claudio è già andato via, c'è Luca, Roberto, io, non so se c'è ancora Riccardino, Riccardo ci sei? Sì, ciao Claudio, ti saluto, sono tutti gli altri. Ciao Riccardino. Ecco, sono rientrato. Ok, va. Sì, Fabri, avanti. Ciao, ciao a tutti. Ascolta, ho mandato delle foto a Riccardino. Hai visto Riccardino? Ciao a tutti. Non so nemmeno chi ci ho appena acceso, scusando. Ehi, allora, ciao Fabri, ci sono io, Roberto, Riccardino, Luca e Gavino. Ciao Roberto, Luca e Riccardino. Eppure te, tutti quanti saluto, dai, che sto guardando una cosa anche in, sto cercando un componente, vabbè, ascolta, volevo fare una domanda a Riccardino. Riccardino, hai visto quelle foto? Sì, le ho viste, erano molto interessanti, tutto quello che mi ha mandato, me le devo guardare bene perché ho una conoscenza e non mi ha scaricato tutti i video. Dai, così ti fai un'idea che cos'è l'attività radio. Sì, grazie, Fabri. Dai, ho mandato un po' di foto della stazione, di qualche cosuccia, così si rende conto cosa c'è oltre la 27. Ma c'è qualcuno dentro il microfono che sta scavando, ciao Fabri. Eia, un picchio, no, sento una radio che stava interferendo. Vabbè. Così faceva su quel traliccio ormai inizia a esserci un po' di troppa troppe cosucce, quindi alla fine risolto per il cestello. No, lui ha detto che andava bene, stamane sono andato il braccio si solleva solamente ma non fa altri movimenti, è un problema di sicurezza, la macchina è entrata in sicurezza se c'è qualche problema, però infatti gli ho detto metti a posto perché ci serve, a parte che oggi sono andato, ho lavorato tutta la mattina, abbiamo montato tutte le canne, il riflettore, ho montato anche già tutti i supporti nelle 4 canne, ma la mattina solo per quello, cioè non te lo immagini il lavoro che c'è ancora, non è possibile. Andare, vabbè, per sabato già ne hai, dai, già sono anche io. Io sono di parola, è che gliel'ho detto, è che lui, se no non ne avrei fatto, mi sto spaventando del lavoro che ci vuole. E lì non è poi che dice, beh, un pezzo io, poi io la devo fare, non è che ci può mettere le mani tutti quanti lì dentro. Uno inizia e uno deve finire, o uno proprio dice, allora cosa devo fare? Allora fai le canne, metti le canne, prenditi le misure dal manuale, tra, capito? È un lavoraccio, non è una cosa semplice. Dice, lui è disperato, quando l'ha vista è un po' disperato, l'ho visto, nel senso che sta guardando con gli occhi che gli si girano dall'altra parte, come per dire, meno male che la sta facendo qualcuno, se no rimaneva smontata. Fatto ridere, ma... E io lo vedo, eh. Ma io le che sono brutte, ma sono tende a pendolone la cosa, l'è vero. Sì, però che abbiamo fatto un bel lavoro, già abbiamo fatto, eh. Non l'ho visto, però l'ho visto da sul tetto mio, si vede, diciamo, già lo sai dove abito, un po' prima di lui, quindi da sopra il tetto mio si vede la roba tutta riata, tutta penzolurta. Il progetto abbiamo messo più o meno a posto, è che c'è da riabbacciare, c'è da fare delle cose, però diciamo che per il momento adesso rimane così. Ma poi quando abbassi del tutto ci arriva bene la terra, giusto? Sì, diciamo più o meno, non proprio. Ecco, quindi non ci arriva neanche bene bene la terra? Non proprio. Andà bene, andà bene. Ok, vai Riccardo, riprendi. Ok, riprendo io. Fare, se me la fai vedere vediamo un po' se va bene, poi ci mettiamo d'accordo. Ok, ciao Fabrizio, ben sentito. Di antenne, cos'è? Walter, ne è caduto qualche pezzo di antenna? No, io sto facendo, montando un'antenna nuova, ma cioè abbiamo una torre, abbiamo smontato tutto da una torre e sta montando un'antenna nuova, però ci vuole troppo tempo. Un'antenna nuova, nuova nel senso nuova, o cioè sostituendo non è quella che c'ha vecchia, cioè nuova per altre frequenze? È una cubica a 5 elementi, ma non so quante settimane ci vorrà, anche lavorando ogni giorno ci vuole giornate e giornate di lavoro. E a quanti metri è? Perché frequenza? Fa tutto. Nel 13 quello grande, quello alto? Sì, nell'ultimo, sono tutti e due uguali, uno l'ultimo. Fa 10, 12, 15, 17, 20, 40, ha detto fa anche 40, cioè lupa che fa 40 e 6 metri. E a voglia, quindi è una bella bestia. Abbastanza, però ci vuole troppo tempo a piazzarla. Ma cos'è, l'antenna americana di dopo? No, italiana, non so se l'americana l'hanno comprata quel progetto, quelli la fanno in Italia. Ok, va bene, cosa volevo dire, poi Giovanni, stamattina Claudio mi ha riportato quella roba là, c'era lo schema, dice che lei ha chiesto lo schema, poi non so se ti ha fatto vedere quelle mondezzine che c'aveva, un break lontano, avanti il break. Ok, e Eugenio ci sarà? No, Eugenio mi sa che è andato a cera. Fabri, e beh, questo 48 a che punto sei? Ho fatto qualcosa? Sì, allora ho montato il finale, poi gli ho fatto tutti gli effetti speciali che può avere, gli ho montato il frontalino, la scheda interna come si chiama, bicolore, poi gli ho montato il display bicolore e lo smitter bicolore, nel senso che quando lo accendi tutto blu, quando vai a trasmettere diventa tutto rosso. Poi sto lavorando sulla scheda canali e poi c'ho di altre cose da piacere. La scheda canali adesso ce l'ho impiattata, ma ci sono dei problemi, ma credo che il mio Yalan 48 ci sono due, escono col PLL, che sarebbe CL7110 mi sembra, oppure con l'emulatore. Il mio c'è l'emulatore e ti dice lui di ponticellare una certa cosa, ma non sta andando, secondo me è quello, perché non lo so, adesso sto aspettando che trovi, ho qualche baracchetto, ne ho ordinato uno, un baracchetto vecchio dalla rete e poi lo controllo, al limite lo metto a posto lo stesso quello lì, però voglio recuperare questo integrato e voglio rimodificarlo, perché ce ne sono alcuni che sono usciti con l'integrato e alcuni invece che hanno questo emulatore, e io voglio toglierlo e voglio modificare e rifarli a circuitarlo come senza emulatore, quindi voglio metterli quello e quindi poi dovrebbe andare. Dopo ho fatto quello, proseguo piano piano, adesso l'ho messo sul banco, adesso l'ho messo da parte adesso e lo riprenderò fra qualche giorno, piano piano, non ho fretta, lo voglio fare, voglio elaborarlo al massimo che si può fare, capito? Anche per poi non so se ne farò, perché ci vuole tanto di quel tempo, però almeno devo capire come si mette le mani, come funziona, sapere cosa ci fanno e poi vediamo. E quello che voglio trovare è un altro tipo di microfono, che questo, non so, questo è, qui c'è scritto Midland, Alan c'è scritto, ma non è il suo originale, devo trovare un microfono originale di quella radio. Allora, i microfoni che escono bene lì sono quelli classici della CTE, che si usano quelli con capsula 4190, e poi tu stai parlando del PLL del 7120, ok? Sì. Vabbè, il bicolore non l'avrei fatto, ma tanto usato in affutti. Il bicolore lo fai direttamente color ghiaccio, che è bello, o color ambra, che è molto bello, lo stesso. Vabbè, ah, tu lo vuoi fare proprio completo, completo. Ma ascolta, la modifica come la stai facendo? A calamita, a relè, oppure tu accendi e va direttamente sulla modifica? No, calamita, non so nemmeno quella, no, niente, io lo accendo e funziona così. Adesso io per esempio, quindi mi la capsula deve avere la 4190, così? E io, guarda, se li compri da, ce l'ha anche coso, Tonino, lì alla, alla GBC, alla GBC ce l'ha, non l'ha fusato, mi sembra che costa intorno ai 14 o 15 euro, quelli Midland, tutti neri classici. Ma il microfono ti dà direttamente? Sì, tutto il microfono completo. E come faccio a sapere che c'è quella capsula? C'è scritto anche sulla targhettina dietro, capito? Sulla targhettina dietro il microfono ci dovrebbe essere scritto, ma anche sulla scatola, 4190. Ok, poi guarda anche questo come c'è scritto, non c'è scritto niente. Sì, no, adesso ti ho detto, no, quello l'ho già fatto, e c'è lavoro mi per fare queste fissili del frontalino. Praticamente il frontalino, il frontalino è bello, è bellissimo, di vedere che è bello, guarda, fu un video che ho fatto a Marco, quasi quasi poter un giro. Allora, è tutto smontato ancora ovviamente, il frontalino è bello perché è tutto illuminato blu, il display è blu e lo smitter è blu, veramente è bello. Quando tu vai importante, poi ho modificato anche il LED che ti dà quando vai in trasmissione, quello adesso prima non si accende, ma adesso quando lo accendi è blu anche quello, quando vai in trasmissione diventa rosso, quindi praticamente trovi il LED in ricezione blu, il display blu e tutte le manopole tutto blu, quando va in trasmissione diventa tutto rosso. È bello, sì, ce l'ho avuto anche io così, c'ha una schedina dentro per fare bicolore, capito? Io gli avevo messo anche i pomelli nitro, che è ancora più bello, diventa ancora più bello poi, capito? Sì, no, lo so, c'è un casino di lavoro, ma infatti diciamo che, allora ti spiego, per fare un 48 ti prendono una cifra, per fare per esempio un Pluto, cosa ne so, un Magnum, un Tornado, ti prendono molto di meno perché non hanno bisogno né di doppio modulatore, hanno già i canali, devi solo metterci la scheda, metterci il beep, il colt e basta, capito? Invece lì ci vuole doppio modulatore, scheda 120 canali, ecco perché sui 48 si spende un pochino di più, capito? E va bene, dai, sono curioso di sentirlo poi, dai. Sono Massimiliano. Sì, dimmi Riccardo. Sì, con le altre che mi hai girato Roberto, aspetta che stanno in fondo. L'ho chiamata e perché me lo spedisce. Ha detto gli dà anche 200, vanno solo in blocco. Dai, va bene, 100 euro un Turner più 3, quello grigio, e un Sa Delta, va bene, dai, 100 euro più la spedizione ci sarà giustamente, ma comunque sono già due microfoni che si possono adattare bene a delle radio. Sì, comunque ti ringrazio, perché hai girato un aspetto, è stato provato, io stavo girando più subito, scrivendo il microfono Turner, cosa del genere, quindi Turner, come microfono, ok, va bene. E cosa ne fai di quello lì, Riccardo, di quello che hai comprato? Anche così. L'antenna l'hai già ordinata? Sì, l'antenna è già costruita. Va bene allora, dai. Va bene. Fabri, ti mando una foto di un microfono che mi ho fatto portare da Napoli, che vanno molto bene anche questi qua, li trovi più o meno a 14-15 euro. Manda, perché il microfono io non ho nessuna esperienza su queste cose. Ho questo microfono mi piace molto, cioè, perché poi dipende molto dal microfono, quindi se io ho un buon microfono, so già come un microfono che va bene, io prendo quello e gli monto direttamente questo è, c'è scritto Midran, no, Alan c'è scritto sopra questo microfono. Ma sono quei classici con la plastica grigia, diciamo, che hanno il bordino un po' più argentato, quelli lì? No, tutto nero, E più o meno è questo che ti ho mandato, guarda, è più o meno come questo qua. Adesso guardo. Ah sì, lo conosco, ma non esce molto bene questo, Fabrizio. Capito? Questo ciò. Ma ci vediamo? Sì. Ora si sta innescando ora. No, non sta innescando. Rumore di vento e quant'altro? Sì, vabbè, leggerissimo, dai, ma è un'idea. Ancora, gli ho fatto le connessioni. Vabbè, no, questa è questione di massa, mi guarda adesso per farti capire. Appoggio il dito alla carcassa, guarda, Vedi? Roba di massa lì. E vabbè, ma comunque adesso è proprio leggera. Non riesco a eliminarlo, forse c'è troppa amplificazione, non lo so. Fabri, ma quello che c'è dietro il microfono, cos'è? La mia? Quale? Quella cosa che si vede dietro il microfono con tutti quei pulsanti, i pomelli, cos'è? Sì, senza ombra di dubbio. Ah, quella radio, no? No. Aspetta, già avevo 2 anni e mezzo, l'ho comprata, era almeno 2 anni e fruscia in scatola, mai usata, che ce l'avevo comprata, per carità, l'ho collegata 2 mesi fa. Vabbè, va. Ma io mi ho abbinato questo 60, questa radio, quella solita là. Ehi, il problema tuo, stai uscendo benissimo, il problema tuo non puoi pretendere di uscire, l'ho già notato troppe volte. Ecco, ma il microfono che ti avevo dato io, che c'è Claudio, per comprare una bomba, meglio del 60, se non hai capito, è meglio del 60 con quella radio. E tu lo fai girare così, non come quando senti anche Claudio, che la tonalità tua è bella, da Walter, la tonalità è bella, però probabilmente non fai vibrare le corde vocali, il modulatore ha necessità di frequenze basse, capito? E tu non lo fai, e quindi è così, però non ci puoi fare niente, è così. Sì, vabbè, diciamo che questa qua forse è un po' superiore a quello là, ma io non ci avevo dubbi che con lui, gliel'ho prestato per provarlo e l'ha attaccato una bomba, cioè, ma Claudio, tutto questo che piglia dei microfoni esce bene. Sì, anche io vedi come lo spingo bene, però anche Marco lo spinge bene, però chi lui lo spinge meglio di tutti, ma quello è un problema di timbrica, di corde vocali, o ce l'hai o non ce l'hai, non è che puoi fare altro, è così, però va bene. Addirittura quando era col più 4 era più forte, spingeva ancora di più, Quale? Quando ha provato il più 4 attaccata la sua, era più amplificato, però il 60 è migliore secondo me. Insomma, già è bello anche che, vabbè, ti ripeto, quando lo stava provando usciva benissimo, va. E vabbè, ognuno ha la sua timbrica, va. Ma a me non è che mi sono a fare queste grandi questioni, va. A me la radio mi piace di più di giochi da combattimento, capito? Sì, l'hai visto quel microfono, quel Merris, Fabri? È quello che vende lui? Dovrebbe avere, no, questo io lo vedo, lui vende, lo vende uguale e preciso identico a quello, però davanti c'ha la scritta Midland, capito? Io questo qua l'ho preso da uno di Napoli che è quello che mi ha modificato l'S9, capito? Ho capito, meglio col marchio Midland, devo fare un bel lavoro, meglio così. Io aspetta Riccardino, ci sei? Sì, sto ascoltando, comunque devo chiedere che vado dentro, aspettano a fare freddo e vado anche a mangiare, vado in carica. Saluto a tutti, che ci siano in frequenza, grazie per la Massimiliano che mi ha trovato questo microfono, e ci risentiamo o dopo la carica, dopo mangiato, o ci risentiamo a domani. Va bene, ciao. ciao, sì, riporto Riccardo, gli dici anche, senti a me, fate un po' furbo, gli dici che il microfono ogni tanto dà delle scariche, come tocchi i potenziometri, gracchi a tutti, ogni tanto manca, torna, va male, esce anche male, non gli dire che non ti piace, digli proprio che l'hai usato, ma questo microfono sta andando male, tu digli così, che va male, che ogni tanto gracchia, come lo muovi, manca l'audio, torna, come tocchi i tasti, c'è qualche problema, capito? E ti fa restituire i soldi. Chi è che te l'ha detto? No, non vorrei che pensate così, che l'avete provato e non la sia valso niente. E gli ho fatto io e gli dico che grazie, e poi mi sarei stato noi a fargli venire questo problema. No, dici che il microfono tu si muove tutto, che non va bene, che ogni tanto quando muovendosi così, tanto era già così, ha problemi questo microfono, che oltre a questi graffi dici, comunque ogni tanto questo microfono manca l'audio, non sta andando bene, non amplifica, c'è qualche problema, non va bene, digli che non va bene, lei provate e non va bene, non solo a questo, perché quando c'è questo microfono altri problemi gli fai dire, e ti fai tornare i soldi, punto, perché non va bene così quel microfono, è bello, è un bel microfono perché funziona, stai uscendo, non ti ho mai sentito uscire così bene, esci benissimo, però no, voglio dire, tu l'hai pagato per nuovo. Sì, lo so, ho visto anche da altri siti nuovo, costava una cosa del genere. E riporta gli restituire i soldi, dice questo non va bene, gli lui ci ha detto non va bene. Capito? Male ti può dire vabbè te lo cambio e te lo do nuovo e te lo dà nuovo, magari te lo fa arrivare, aspetti, non prendi quei microfoni, così non butti i soldi, perché questo va benissimo, e te magari te lo fa arrivare nuovo, e se proprio non te lo vuole restituire, però te lo dà nuovo almeno. O no Massimiliano? Beh, giustamente, io glielo ho detto già da stasera, capito? Cioè gli ha fatto pagare un microfono a prezzo d'oro, vabbè. Comunque poteva dirle anche magari, guarda questo microfono ha questo difetto, ha questo problemino, se lo vuoi te lo do a una cifra più abbordabile, ma non 70 euro nero me. Gli ha scontato addirittura 8 euro, 78 euro, ma comunque Ricca, può dire l'ho provato con la radio e questo microfono non va bene, a volte manca di modulazione, si muovono tutti i potenziometri, perché è vero che si muovono i potenziometri, e ti fa restituire i soldi, capito? Bravo, proprio così digli. Ok, farò, perché infatti non si può fare così questo microfono. Comunque, vi saluto a tutti, vado in carica. Ciao a tutti, Fabri, adesso come entro in casa, dopo aver mangiato mi guardo quel video che mi hai mandato, che non li ho guardati tutti. Guarda, ti ricordi che viene la voglia, poi più avanti magari c'è anche tuo padre, si può anche scendere, montiamo un filo lungo, che tu c'hai la campagna, un ricevitore, ti presto una radio io e puoi ascoltare un po' di HF almeno. Ok, grazie Fabrizio, come ho detto, salto a tutti, un mico veramente chi c'è, quindi lo ricordo solo Claudio, Fabrizio, chi c'è anche Roberto. E poi non mi ricordo. E va bene, ciao, buon appetito Riccardo. Ok, grazie. Tu, ciao Ricca, buona carichetta. Tu quando entri in radio prenditi una penna, un foglio, ti scrivi chi c'è, capito? E ti va via, così ti ricordi tutto, va. C'è Tino, vai Tino. Via. Ciao Ricca, ciao. Buona carica. Buona notte per quando la farai, dai. Va bene, ok, sì, va bene. Guarda, ho visto anche un 68, cos'è che ti ho mandato stamattina? Un 68 era un 48, era 50 euro. No, era 70 euro ed era un 48. 70? 70, sì. Hai capito Fabrizio, dov'è il problema? Che quel 48 ci vuole un un saccaccio di tempo per tutte queste cosettine, che poi vabbè, adesso magari anche il primo, poi magari se ne farai altri sarà più sbrigativa la cosa. No, certo, il fatto è che sto perdendo un sacco di tempo perché non ho nessuna esperienza, quindi sto studiando tutto, un sacco di cose, sto studiando gli schemi, e comunque poi non è che per dover agganciare, fare, vedere, e già per esempio ho riscontrato questo problema, e già probabilmente quelli con bisogna cambiare anche quell'altra, chi li fa sa, come lo questo, vabbè, questo bisogna cambiare anche questo, bisogna fare questa modifica, però voglio dire, chi li fa comunque li fa perché ne ha fatto un bel, se no non ne vale la pena, perché ci devi mettere le mani, devi andare lì e lavorarci, perché ci sono un sacco di lavoro, cioè è giusto che se li facciano pagare. La scuola è finale invece, cosa hai messo? 69? No, il 2048, qual è? Il 69 li ho comprati, l'ho smontato con un'altra radio, però poi ho montato questo, ancora non so se gli lascio questo, cioè, siccome c'è un finalino interno per la RAM 48, c'ho intenzione di rimettere quell'altro, non lo so, c'ho intenzione di mettergli proprio un finale e farlo uscire con 30-40 watt. Se le metti un MOSFET? Un MOSFET va bene, capito, arriva sulla trentina, va benissimo. Sì, ma perché quello è già pronto, vabbè, quello lì, però col MOSFET devi mettere, credo che lavorino con tensioni molto più alte, quindi devi mettere devi innalzare la tensione, devi lavorarci molto più pesantemente, mentre lì con questi finali, no, è praticamente lo stesso finale, devi cambiare qualche resistenza, qualche cosa, giusto per portare la tensione giusta, dai. Però poi siamo lì, non... Quello di MOSFET è già un lavoro più macchinoso, anche perché devi lavorarci bene dentro, non so, ho visto col MOSFET sicuramente le tensioni più alte, quindi dovrei costruire un innalzatore di tensione, sicuramente. Lo so, ma guarda, io ho sentito stasera che Gianni te la vorrebbe dare quel 48, se tu te lo fai dare almeno vedi anche come, dove si sono collegati, cosa hanno fatto, capito? Ti rendi più conto, secondo me, anche se sono sicuro ci riesci uguale, non è che senza avere un'altra radio, però intanto ti fa vedere tante cosettine che magari su carta non ci sono, non mi capito? No, ma già ho scaricato manuale, ho trovato poca di roba, sto studiando, adesso man mano, adesso la prima cosa, perché poi non trovo più spazio, mi viene male lavorare, adesso ho fatto la parte degli effetti speciali, il finale, adesso devo lavorare sulla scheda canali, ma c'è, te l'ho spiegato, una volta fatta la scheda canali, poi lavoro sul resto, gli ho messo il tastino a tre cose, anche lì il tastino l'ho trovato, però il tastino non ho messo come fanno loro, ho messo il tastino a tre posizioni, centrale, normale, basse e alti, e anche quello va tutto limato, molato, perché sennò non riesce a farcelo stare. Meglio così, va più bene così, vabbè, in genere usano i due pulsantini, no? Eliminano un filtro, e poi cosa fanno? Poi fanno lo squelcio automatico, regolazione di watt, regolazione dell'eco, e poi che cosa faccio? Cosa fanno ancora? Vabbè, tanta gente lo fa anche con doppio potenziometro, magari per avere più cose, ma comunque una volta che così va bene, a tre va bene, che poi i canali di sotto ormai non si usano, che ci vale il canale di sotto a modulare, ma una volta lo stai facendo lo fai completo e via, va. Però la sua idea è migliore così, perché in quel caso là togli anche l'FM e invece l'FM glielo devi lasciare, capito? Facendolo a tre come ha fatto Fabrizio è migliore, secondo me. E perché togli l'FM, scusa? Chi l'ha detto lo togli l'FM? Il pulsantino lo puoi, tanto devi eliminare uno di quelli per forza, quindi ti puoi eliminare tranquillamente dove c'è il PA, un esempio faccio, elimini quello che il PA non te ne fai niente, ci metti i canali, te li metti lì, non è detto che devi eliminare le aschere FM. Comunque in genere quando fanno con doppio modulatore tutte cose, allora l'FM lo eliminano sempre, perché tu in FM con quelle radio poi così con l'eco non ci parli, in FM non va bene. Con la bypassi la radio che la puoi usare normale è modificata, se no ti voglio avere una radio modificata in FM andando a modulare. È per quello, ho detto, se tu vuoi modulare nei canali normali con l'FM non puoi, a me infatti quando mi hanno fatto la modifica praticamente dovevo fare in FM e abbassare l'altro, quello a fianco, per andare in modifica, capito? E viceversa con l'altro, no, l'FM lo devo lasciare. Cosa vuol dire? Se uno vuole parlare, che ne so, sul 38, in FM non può. Ma l'FM ho visto che lo eliminano tutti, cioè, perché ma il problema qual è? C'è proprio una scheda, io non lo so, io vediamo se riesco a lasciarla, ma la scheda occupa un sacco di spazio, cioè non lo so se riesce a lasciarla la scheda. Vabbè, dove c'è la scheda FM lì in genere ci mettono il doppio modulatore. Sulla radio modificata l'FM non te ne fai nulla, cioè non è una radio che puoi stare a fare equazione 48 e già usare tutti, che da caso abiti tanti di chi si golpi, che secondo la propagazione che c'è poi lascia perdere. 48 è una radio allucinante per i colpi che prende, però tu qualsiasi preparatore, tutti togliono la scheda FM. Allora scusate, avete ragione, tanto è vero che io a Fabrizio gli ho consigliato, ma poi ognuno fa quello che vuole, solo si prestano molto quelle radio, quanto sappiamo, alle modifiche, però se prendi una radio più selettiva come quello che ho preso ultimamente, che è un Intec HR5005, che diciamo che è molto un similare al Pluto, è più selettiva la radio, non prende splatter e poi faccio le stesse modifiche del 48, a mio parere. Poi sì, Tino, stiamo parlando di due radio completamente diverse, siamo due mondi completamente diversi, tanto è vero che in quelle radio così, come ha detto prima Fabrizio, non ci va scheda canali, non ci va scheda beep, perché lo puoi modificare tranquillamente con una resistenza, il beep lo puoi fare beep colt, i canali ce li ha già, lo devi giustamente allineare, capito? E quella radio c'ha già l'FM, tu chiudi l'eco, ci puoi parlare, capito? No, questa chiudiva e beep praticamente lo puoi accorciare, allungare come cacchio vuoi tu, tramite il menu interno, che l'ho già fatto, e te l'ha fatto tipo colt. L'eco, vabbè, ce l'ha, non sarà come quello che dici tu, però credo che si possa modificare in quanto a velocità, cosa vuoi che ti dica? Non so, per me è migliore, più selettiva, poi se sono due mondi diversi, giustamente li ho sempre sentiti, i 48 hanno una bella modulazione, però non, come hai detto tu, se non parli in quel canale lì dove c'è gente che arriva forte, il resto è noia. Ma sono fatti apposta perché sono da camionari, capito? Sono baracchini che vogliono i camionari, perché sono omologati, li modificano, usano quelli, solo per quello, se no non li vorrebbe nessuno, e che li usano in barra pesante, è quello che è il loro scopo, perché sono omologati. Allora Fabri, per farti capire, allora questo qui è un S9, ok? Questo è modificato, però io lo sto usando normale. Allora, questo accendo l'eco, così cambio, metto il beep, butto dalla tastiera, io se questa radio voglio parlare in banda laterale ci posso parlare, se voglio parlare in FM ci posso parlare, capito? Sì, già ho capito. La radio, questa è... Sì, quello sì, ma è molto più semplice lì, perché devi solamente mettere una scheda, è più semplice, sì, poi ci sta, c'è un bel di spazio, capito, lì non c'è spazio di niente. Per quello. Va bene, dai ragazzi, io vi lascio alle vostre chiacchierate, me ne scendo giù a mangiare qualcosina. E niente, ci sentiamo alle prossime. No, vi saluto con la buona serata. Ciao Fabrizio, Tino e voi ascoltori. Ciao. Dai, anche io adesso mi butto un po' dentro. E via. Vengo un sacco. Domani mattina mi valterei presto per lavoro. Tu stai lavorando, Tino, sì? Sì, sì, noi siamo vendo a Russi, via Campanetta, dove ho fatto intervento. Stiamo lavorando per conto del consorzio, capito? Consorzio della Nurra, e quindi dobbiamo fare delle riparazioni che sono in corso. Beh, non sono stato sceso là, avrei fatto qualcosa sempre per tenere pulito il posto. Va bene, Fabrizio. Niente, poi te ne parlerò magari sabato, c'ho una cosina anche io in mano qua, se ti dovesse servire qualcosa. Ehi, va bene, va bene. Adesso ci andiamo dentro. Babbo, sì. Ciao a tutti quanti, agli ascoltoni, chiunque ci sia in questo canale. Vorrei da parte mia. Vabbè, ti mando una foto se ti interessa, poi. Però so che hanno cambiato una capsula, non so che capsula sia. È similare del microfono normale del Midland, però ti mando una foto. Va bene, grazie, buonanotte. Ciao ciao.